Friuli nel mondo, 56esima trasmissione dedicata agli immigrati, canti della serenità e del lavoro. Ora sui monti, sui colli, nelle pianure del Friuli, ferve il lavoro. La primavera è nella sua pienezza e dai campi l'uomo raccoglie i primi frutti delle sue fatiche. Vede il grano crescere e tramutare il suo colore da verde a biondo, contempla le piantagioni in fiore e, fidando nella clemenza della stagione, pregusta con la mente la qualità e la quantità del raccolto. La sua anima è lieta e le sue labbra si aprono al canto. Noi oggi, cari fratelli lontani, vi facciamo appunto omaggio di un mazzetto di canti popolari del Friuli, ispirati alla serenità e al lavoro. E lo leghiamo, questo mazzetto, con un fiocco di seta verde, così come fa il giovane con la sua innamorata in questa dolce villotta. Con un fioc di sede verde ti hai leati il tomacetto. Tu puscrodi, tu bambine, se in te no hai affiet, che il garofoli in che tace, e la tace sul balcon, damagliù, bambine chiare, che l'unuli sale bon. Cantano gli uomini sui monti, sui colli e nelle pianure del Friuli, e con essi cantano le ragazze. Quale il tema delle villotte se non l'amore? Ma non un motivo appassionato, bensì un canto sereno, quasi uno stornello, uno scacciapensieri. Una volta i bevi un zovin, l'hai venduta al peciotar. Lui mi ha dato tante sguseles che hai emplato il guselar. ma i due temi della serenità e del lavoro sono stupendamente fusi in un'altra villotta che è un invito alla cordialità e alla spensieratezza. Paisi d'ogne compagnie, duit d'accordo, duit sancir, uno rute di lirie e val plu di cent pensier. Si lavore, si guadagne, tanti vivi con onor, alle matqui cal sparagne con l'idea di fasi sior. No.